Io sono tra quelli, diciamo, che ha subito una sanzione di 5 giorni. Noi, diciamo, quando c'è stata questa conferenza stampa, qui erano invitati anche rappresentanti di Casa Pound su questa proposta di legge sulla rimigrazione che ricordavi anche tu, abbiamo assunto un'iniziativa peraltro assolutamente non violenta e a mio avviso, e so ancora ora, rispettosa dei regolamenti parlamentari. Già ci siamo seduti nella sala stampa che sarebbe dovuta svolgere la conferenza per testimoniare il rifiuto di quello che stava accadendo. Io dico anche difendere la dignità del Parlamento e i valori costituzionali. La conferenza poi non si è svolta su decisione del Presidente della Camera. Nella fase successiva c'è stata una prima delle audizioni dei deputati che hanno assunto questa iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera e poi ieri l'Ufficio di Presidenza ha votato a maggioranza delle sanzioni che per quanto riguarda i deputati poi si concretizzano in sospensioni da un certo numero di sedute, peraltro rispetto anche alle situazioni che erano capitate in altre occasioni la maggioranza dell'Ufficio di Presidenza ha scelto sanzioni particolarmente rilevanti e appunto per quanto riguarda me altri 21 c'è una sanzione di 5 giorni per altri 10 di 4. È un episodio molto grave, soprattutto anche visto il tema che è la difesa dell'antifascismo. Sì, io penso che sia appunto una colpa, essere antifascista sicuramente una colpa che abbia tanto tempo. Noi credo che abbiamo fatto il nostro dovere, i parlamentari della Repubblica, perché abbiamo difeso la dignità del Parlamento e abbiamo difeso la nostra Costituzione, che è antifascista nel suo insieme, e poi perché, come è noto, vieta con un articolo che i padri costituenti hanno voluto non transitorio ma permanente, la ricostituzione in qualsiasi forma del partito fascista. Quindi abbiamo voluto dare un segno, insomma, importante, difesa della dignità del Parlamento. Forse avrebbe potuto farlo anche qualcun altro, l'abbiamo fatto noi. Penso che questa sanzione davvero sia un segno molto, molto negativo, insomma, che dice tanto anche della mentalità di una parte di chi è presente in quelle aule parlamentari. Ci sono mai stati precedenti di questo tipo? Precedenti legati a una conferenza stampa ce n'è stato uno che ha coinvolto Di Battista e Roberto Speranza. Cioè, Di Battista impedì una conferenza stampa di Speranza, ma con una dinamica molto diversa da questa, perché appunto nel nostro caso, peraltro, il deputato che aveva promosso la conferenza stampa è stato presente in sala stampa e c'è stato nessun atto, diciamo, che da parte nostra che ha fisicamente impedito la conferenza stampa, c'è stata una manifestazione di dissenso politico per una decisione del Presidente della Camera. Quindi io penso che anche dal punto di vista regolamentare la decisione dell'Ufficio di Presidenza sia molto discutibile, l'ho detto anche quando sono stato udito dallo stesso Ufficio di Presidenza. Detto questo, è chiaro che al di là, insomma, dell'aspetto di regolamento c'è un fatto politico evidente, insomma, nel senso che abbiamo difeso quella che è la Costituzione della Repubblica, su cui giurano tutti coloro che hanno ruoli istituzionali, abbiamo difeso gli articoli, le caratteristiche, abbiamo anche letto gli articoli della Costituzione in quell'occasione, quindi insomma siamo sanzionati, chi difende la Costituzione mi pare davvero molto discutibile. Possibile non notare che questa cosa avviene all'interno, insomma, di un clima pesante, insomma, nel nostro paese? Ma sì, io penso che da un lato non solo in Italia ci sia un problema della crescita dei movimenti razzisti di estrema destra, su questo ho anche presentato due proposte di legge che sono, insomma, sicuramente un pericolo che va contrastato. E poi io penso che invece nella destra di governo, che ovviamente governa il paese in modo assolutamente legittimo finché avrà il consenso popolare, se non l'ha avuto al referendum vedremo alle prossime elezioni, ma governa in modo assolutamente legittimo, io penso che sul tema dell'antifascismo ci siano delle ambiguità che sono alla fine un limite per tutto il nostro sistema democratico, perché io penso che tutti i partiti, tutte le istituzioni si debbano unire su valori comuni, ma però questi valori non possono che essere quelli della Costituzione, che è la base della nostra democrazia e della nostra Repubblica.